Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobin. Mi sono dimenticato i fichi. Maledizione, mi sono dimenticato i fichi. Cerco Stefan per farmi ridare le chiavi. Stiamo per cominciare, dammi le chiavi. Pedalo fino alla macchina e metto 3 fichi nella tasca posteriore. Forse dovrei prenderne 4 o 5. Zavorra inutile, non ne mangio mai più di 2 durante una gara. E poi col sudore gli altri diventano sempre marroni e lucidi. Zavorra? Se penso davvero che qualche grammo in più mi dia fastidio, posso sempre mangiarli, no? Jacques Anquetil, 5 volte vincitore del Tour de France, a ogni salita toglieva la borraccia dal portaborraccia e la infilava nella tasca posteriore della sua maglia di gara. Ab Geldermans, il suo primo gregario olandese, vide quel gesto per anni, non riuscì più a contenere la sua curiosità e alla fine gli chiese quale fosse il motivo. E Anquetil glielo spiegò. Un ciclista, disse Anquetil, è costituito da 2 elementi, una persona e una bicicletta. Certamente la bicicletta è il mezzo che aiuta l'uomo ad andare più veloce, ma il suo peso può anche finire col ridurne la velocità. La bici ha un ruolo fondamentale, soprattutto quando si fa dura, ed è ovvio che durante le salite deve essere il più leggera possibile. Un buon metodo per alleggerirla? Far sparire la borraccia dal portaborraccia. Quindi, in salita, anche Till spostava la borraccia dal portaborraccia alla tasca posteriore. Non fa una grinza. Team Crabbe, la corsa. Amici sportivi appassionati di grande ciclismo, buongiorno. Con questa introduzione in omaggio ad Adriano De Zan, rieccoci a un altro episodio di Radio Bidon, un episodio intimo e diciamo pure sonnacchioso, nel senso che usciamo dal giorno di riposo del Tour de France, l'ultimo, e buona parte della redazione di Radio Bidon non si è ancora svegliata, per cui siamo solo in 2. Io sono Filippo Cautz, dall'altro lato dell'internet c'è Leonardo Piccione. Buongiorno, ciao. Ciao Leo, come va? Bene, abbastanza, sonnato anch'io, ma insomma siamo qua. Com'è andato il tuo giorno di riposo? Guarda, ho provato a fare un giro in bici, ma è stato terribile perché sono andato sull'unica salita che io nelle mie vicinanze, che è il Castel del Monte, che sono 3,5 km di salita, nemmeno troppo difficili. Ho trovato un uomo di 60 anni, credo, che mi ha portato a spasso per tutta la salita e sembrava la Philippe dietro Tony Martin. Ho sofferto come un cane, sono arrivato in cima, distrutto, e adesso sono un po' ristoratore, ma pagherò le conseguenze oggi, divano tutto il pomeriggio. Beh, comunque è una grande impresa anche questa di un Tour de France, per ora povero di imprese, per cui sì, mettiamola in archivio e ricordiamocela. Esatto. Nel frattempo il giorno di riposo penso che bene o male abbiano pedalato anche tutti i protagonisti del Tour, forse qualcuno anche meno di te. Uno che ha pedalato poco e ha parlato tanto è Bauke Mollema, che grazie al suo team Trek Segafredo ha tenuto una conferenza stampa che ha fatto registrare tipo 10 volte tante le presenze che c'erano alla sua conferenza stampa al primo giorno di riposo, per via ovviamente della classifica. La particolarità è che hanno voluto tenere la conferenza stampa presso l'ambasciata americana a Berna. Ah. Adesso io non so bene quale fosse il motivo, se Mollema ha così paura di Froome che vuole chiedere, non so, asilo politico, rifugio, la green card o non lo so. Okay. So che la domanda che gli è stata fatta di più è stata come si pronuncia il suo nome, vero? Esatto, perché tra l'altro tu già l'hai sbagliato 2 volte, ti volevo già segnalare questo. E abbiamo l'audio di Bauke, e non dico il cognome, ce la facciamo dire da lui, ascoltiamo e finalmente capiremo come si pronuncia il suo nome. Vai Bauke. Bauke Mollema. Ok, sbaglio io a pronunciarlo come lo sbagliano quasi tutti i commentatori italiani, questa cosa mi riempie di orgoglio. Diciamo abbiamo imparato prima a pronunciare Kruiswijk che Mollema, questo fa abbastanza impressione, però oggi finalmente ci siamo anche noi. E secondo me potremmo avere dei contrasti anche su questo, perché io ad esempio dico Kruiswijk. E mi sa che c'hai ragione tu su quello, mi sa che stavolta ho sbagliato io. Allora, chiameremo Steven per la prossima puntata e chiederemo a lui come si pronuncia. Sì. Nel frattempo ringraziamo Bauke Mollema, nostro inviato al Tour de France, e andiamo ad altri inviati più virtuali di questa della giornata di ieri, ovvero i tweet che abbiamo sbirciato in maniera ossessiva più che mai, visto che non avevamo altro da fare tranne che pedalare. Leo, tu che sei lo stalker del gruppo in questo Tour de France, cosa hai avvistato su Twitter? Beh, le solite cose del giorno di riposo. Ho avvistato un sacco di baguette condite, ben condite. Ho trovato massaggi, c'è una foto con le gambe di Teke Laimanot che fanno letteralmente impressione, poi ve la faremo vedere sul post. E poi ho trovato i post di Tony Martin Martin e Julian Alaphilippe, che si ringraziano a vicenda per la fuga di 2 giorni fa, che secondo me, a mio modesto parere, è stato uno dei momenti più belli del tour fino ad ora. E poi torniamo a grande richiesta, tornano i grandi tweet di Vegard Brain dopo alcune puntate in cui ci siamo dimenticati di lui, e ora mi devi concedere un paio di minuti perché Brain ieri, durante il giorno di riposo, si è messo a scrivere una guida per andare in fuga. Allora, la fuga secondo Vegard Brain: ci vuole un extra caffè, un caffè extra a colazione, prima di tutto. Poi essere alla partenza 15 minuti prima degli altri, a costo di sembrare uno stupido. Rimanere davanti al gruppo anche durante la zona del rifornimento e anche durante l'attraversamento dei piccoli paesini, tutti sempre. Rimanere al centro della strada per evitare ai lati della strada il pubblico. Soprattutto, l'ultimo e fondamentale punto, mai tentare di seguire Tony Marr. Questa è la sua guida. E poi lui conclude dicendo che ieri, 2 giorni fa, aveva provato ad entrare nella fuga con Martin e la Philippe, ma uno dei motivi che l'hanno fatto desistere sono stati gli insetti, perché lui ha detto: faceva molto caldo, ero costretto a correre con la bocca aperta, ma mi sono entrati talmente tante mosche in bocca che, arrivato al punto di rifornimento, ho detto no grazie, sono già sazio. Questo Vegard Brain nel giorno di riposo, idolo assoluto. Non saprei, gli voglio molto bene già Vegard Brain, ma ho paura che questa degli insetti sia un attimo una balla. Dici? Che fosse più una mancanza di gambe, anche perché se sei alle spalle di Tony Martin di insetti non ne puoi prendere. Forse non ha preso la scia giusta. Di certo, secondo me, con questa del caffè ha lanciato l'amo per un ingaggio alla Trek Segafredo l'anno prossimo. Perfetto, direi. Perfetto. E noi speriamo, lo vogliamo nel World Tour Vegard Brain, perché abbiamo bisogno di lui. Ci ha dato un sacco di emozioni in questo Tour de France, forse è uno di quelli che ce ne ha date di più, perché come consuetudine dei nostri giorni di riposo, dei loro giorni di riposo e dei nostri giorni di lavoro come tutti gli altri, abbiamo lavoro adesso, non esageriamo, cioè, insomma. Beh, ma lavoro per bidon, chiaramente. Certo. Abbiamo analizzato i nomi che stanno in cima alla classifica, gli abbiamo dato la nostra valutazione, che non è in stellette ma è in borracce, in omaggio al nostro logo e alla nostra sete, e niente, abbiamo valutato come sia il borsino rispetto alla possibilità di vincere questo Tour de France alla vigilia delle tappe che saranno decisive, anche se non succederà niente perché saranno le ultime. Ergo, andiamo a scorrerlo un attimo. Questo borsino non possiamo che partire dalla maglia gialla, non tanto perché è in testa alla classifica o anche perché è in testa alla classifica, ma perché il suo vantaggio anche in borracce è spropositato rispetto agli inseguitori. Ha una media di 4,8 borracce su un massimo di 5, per cui solo uno gli ha dato un punteggio inferiore a 5, a Chris Froome. La sorte vuole che quell'uno è Leonardo Piccione, per cui me lo devi spiegare immediatamente. Te lo spiego col fatto che, come accennato già altre volte, ci ha fatto divertire, sicuramente uno dei più ispirati e fantasiosi, però qualche segnale di nervosismo l'ha dato qua e là. Allora, le cose sono due, quindi o lui rispetto all'anno scorso si è preparato per arrivare all'ultima settimana con l'apice della forma rispetto all'anno scorso, quando rischiò di perdere il tour, e quindi nei prossimi giorni dominerà, e in quel caso avrete avuto ragione voi a dargli 5 borracce piene, oppure effettivamente il comportamento dei giorni scorsi, in cui è stato un po', ripeto, nervoso, gli atteggiamenti in gruppo con gli avversari, il discorso della chiacchierata con Aru non mi ha convinto, mi ha lasciato un po' sorpreso, può darsi che sia un segnale di debolezza e che lui non si senta sicuro rispetto alle tappe che stanno per arrivare, quindi vuole tentare di nascondere questa insicurezza rispetto allo stato di forma con un atteggiamento da sceriffo, diciamo così, che non gli appartiene proprio per natura, per carattere. È un po' una speranza segreta questa qui, nel senso che mi piacerebbe che anche questo tour ci regalasse nell'ultima settimana le emozioni che gli ultimi due grandi giri ci hanno regalato, la Vuelta del 2015 con Aru e il Giro del 2016 con Nibali. Quindi diciamo che è più una speranza che un'analisi realistica, però ecco, questa mezza borraccia di riserva me la tengo ancora per questi giorni che arrivano. Ok, è tutt'altro che segreta questa speranza, è evidente che il tuo voto più basso è figlio della speranza, la speranza che dovrebbe raccogliere Nairo Quintana, che chiaramente è secondo la nostra classifica di borracce, i primi due sono sempre gli stessi all'inizio del Tour de France. Qui Nairo Quintana però si è preso 3 da tutti quanti, il giudizio è unanime, per me il 3 potrebbe essere quasi anche il voto in pagella per come ha corso fino ad oggi, ma non siamo cattivi, pensiamo che il 3 è la terza settimana, che è quella in cui Nairo Quintana suole emergerà, non emergerà, io non lo vedo bene per niente Nairo Quintana. Io non lo vedo nemmeno io bene, lo vedo malissimo anzi, però ecco, gli concediamo il beneficio del dubbio. Leggevo, credo su Velo News, ma non sono sicuro, che qualcuno propone alla Movistar di promuovere Valverde a capitano. La domanda era: se la Movistar cominciasse a correre per Valverde e quindi Quintana fosse quello che si sacrifica per tentare il colpaccio? Io non ci credo, però siamo arrivati al punto, all'inizio della terza settimana, in cui qualcuno propone la realtà di Valverde vero capitano della Movistar. Me l'avessero detto 2 settimane fa non ci avrei creduto nemmeno sotto tortura. Confesso di averla sognata anch'io questa cosa, un po' per l'amore che nutro per Valverde, che è noto. Penso che dopo questo tour non si possa non amarlo davvero. Se qualcun altro ancora vuole parlare male di Valverde, lo rinvio al giorno in cui vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi, poi dopo veramente litighiamo. Già ti sbilanci su Rio, ma poi ci torneremo su questo. E al di là di questo, io vedo che nelle prossime tappe, di cui poi parleremo molto velocemente, ci sarebbe, volendo, il terreno per attaccare da lontano. Nessuno lo farà. Oggi stavo pensando, ma se fosse Quintana quello che attacca da lontano, porta allo stremo Froome e a quel punto parte Valverde. Se così fosse, forse il tour lo vincerebbe Mollema. Ma guarda, io tra i primi 5 della classifica generale faccio il tifo per lui, per Mollema, senza dubbio, perché mi piacciono un po' questi regolaristi olandesi che ormai sono diventati una categoria a parte. E dopo Kruiswijk, continuo a pronunciarlo così, perdonami, lui si è preso un bel pezzetto di cuore con questo tour, sempre lì, sempre con i migliori, e secondo me qualche tentativo lo farà. Certo, c'è bisogno che si muovano gli altri, perché non è che possiamo pensare che Mollema tenti l'avventura per ribaltare il Tour de France. Quella tocca ai Movistar, tocca volendo ai BMC. Lui potrebbe approfittare di un'eventuale azione coraggiosa da parte degli altri, che speriamo arrivi. Sì, va detto che a mia memoria recente Mollema è un corridore che ha delle prestazioni disastrose sulla terza settimana, per cui se c'è uno che sul fondo soffre tra questi è proprio lui. L'altro giorno mi guardavo il tour, adesso non faccio la gaffe, non dico l'anno, ma c'è stato un anno qualche anno fa in cui si è arrivati alle Alpi decisive con Mollema in seconda posizione dietro la maglia gialla, che se non sbaglio era Froome. Anche in quel caso ci fu una crono, Mollema si prese i suoi bei 9 minuti a cronometro e ciao bello. Ma invece quest'anno proprio a cronometro è andato fortissimo. Vediamo quanto fondo ha. Di certo nella nostra valutazione ha 2,8 borracce, giusto una mezza borraccetta di vantaggio su Romain Bardet, che è quello che viene subito dopo. Se c'è da sperare negli attacchi, qui siamo entrambi d'accordo, questo è un uomo a cui accendere il cero. Ha anche ritrovato i suoi occhiali, per cui più di così non ha scuse, non possiamo chiedere. Non ha scuse, esatto, bisogna vedere se ha le gambe. Scuse non ne ha, le gambe vediamo. Le gambe che invece vanno un attimo scoperte sono quelle di Adam Yates, che ogni giorno è una scoperta. Io continuo a dire che questo ragazzo secondo me non cederà con la facilità che tanti gli stanno accreditando. Non voglio sbilanciarmi perché si sa a cosa portano i miei pronostici. Di certo ha poco più di 2,5 borracce nella nostra valutazione. Ma di cedere non cede, cioè sta dimostrando di tenere abbastanza bene, però d'altra parte non ripongo speranze in suoi attacchi, nel senso che gli sta bene, gli va più che bene quello che ha fatto finora. Difenderà la posizione, è giovane, una top 5 o addirittura un podio alla sua età sarebbe già un risultato straordinario. Non mi affiderei agli attacchi di Yates per divertirci nell'ultima settimana, piuttosto invece mi aspetterei di affidarci al successivo nella classifica, che è ovviamente Fabio Aru, no? Sì, Fabio Aru ha 2 borracce, a me non sembra che abbia 2 gambe, però mi sembra che abbia solo 2 borracce. Ha coraggio, ha voglia, ha sfidato Froome, che no, ma infatti io voglio credere che il cuore vada dove non arrivano più le gambe, per cui Aru sarebbe sicuramente l'uomo da seguire in questa cosa, molto più di Port, a cui abbiamo dato 1,5 borracce, così chiudiamo il nostro panorama di borracce. Non lo so, ho paura che non abbia veramente i mezzi, però sarei felicissimo se mi smentisse. Bisogna vedere come è uscito dal confronto psicologico con Froome, che pare gli abbia detto: ma dove sei in classifica? Perché fai chi è la tua squadra se poi non hai appunto le gambe per attaccarmi? Se ne è uscito bene psicologicamente e se le energie lo sosterranno, potrà combinare qualcosa. Certamente più lui che, come già hai preannunciato, i 2 BMC che sono gli ultimi della classifica, Port e Van Garderen, secondo me le più grandi delusioni finora del tour, più Van Garderen che Port, totalmente passivi, mai propositivi. Beh, mi sembra che Port invece, come l'anno scorso sta facendo un gran lavoro per Froome. Io sono così d'accordo nel criticarlo. Peccato che abbia cambiato squadra, però. Ma questo si sa che dettaglio. Port con le squadre fa sempre un po' di confusione, per cui tutto è possibile. Salutiamo Richie Port, è un grande corridore. Ciao, non, Rich. No, non no, sia no, mai. Certo, no, per carità. Allora, sorvoliamo sulla Lanterne Rouge, anche perché è già praticamente assegnata ancora di più della maglia gialla, ne parleremo in altre situazioni, e andiamo a vedere dove si va a giocare quest'ultimo scontro. Si va a giocare inizialmente in Svizzera, perché il tour in Svizzera ha passato il suo giorno di riposo ieri e in Svizzera corre oggi, con una tappa che è disegnata in maniera, come ho definito io, le tappe tappe alpine di questo tour all'Indianata, ovvero tirando i dadi e bevendo tantissimo, perché ha un disegno abbastanza schizofrenico. Tante montagne all'inizio, poi un bel piattone che non fa mai male a nessuno, però poi il finale oggi è veramente una mazzata, secondo me, delle tappe alpine che ci sono, questa è la vera tappa jolly, nel senso che tra la Four Class e l'arrivo fino ai Mosson sono praticamente 30 km, sì, c'è una mezza discesa in mezzo, ma sono 30 km di salita dura, al finale va sopra, va al 12,3%. Sono d'accordo con te, secondo me questa delle quattro che ci aspettano, quella di oggi è la tappa più impegnativa, peccato che l'abbiano messa all'inizio e quindi, come è successo finora nel Tour, sarà probabilmente anche oggi un giorno di attesa, però è vero, forse è anche l'unica tappa in cui ci sono due salite difficili ravvicinatissime una dopo l'altra, come vedremo le altre nei prossimi giorni sono un po' più distanziate. Questa è la stessissima tappa che fu corsa al Delfinato del 2014 e in quell'occasione Contador riuscì a staccare Froome di una trentina di secondi e si prese il primato nella corsa, però Contador non c'è. E dopo nei prossimi giorni cosa vediamo? Poi domani abbiamo la cronoscalata, che è una cronoscalata un po' atipica, nel senso che ci sono dei chilometri di pianura all'inizio e dei chilometri di discesa alla fine, sono 17 km in tutto, nel mezzo c'è una salita che sale veramente a strappi, le pendenze cambiano ogni 300 metri, c'è un tratto difficile con le pendenze intorno al 9%, poi diminuiscono e passano verso il 5%, intorno al 5%, insomma è un cronometro secondo me adattissimo alle caratteristiche di Froome, quindi questo è un altro giorno in cui Froome è il favorito e può fare la differenza davvero, forse anche più di quella che ha fatto nella cronometro pianeggiante di qualche giorno fa. E poi si va all'ultima due giorni alpina, su cui non stiamo troppo a dilungarci perché non sappiamo come ci arriverà a questo punto questa classifica, viene da pensare che ci arriverà uguale, ma chi lo sa, due tappe che messe insieme non fanno 300 km, cosa abbastanza bizzarra per un finale di Tour de France, però con ancora qualche ostacolo mica da ridere, no? Mica da ridere, sì, c'è il Monte Bianco, oddio, Saint-Gervais-Mont Blanc, Le Bettec, la tappa 19, venerdì, e praticamente c'è l'ultima salita che è davvero tosta, e i primi 3 km sono al 13%, poi diventa un po' più semplice, ma è davvero difficile, ma è essenzialmente c'è quella, poi le altre salite della tappa arrivano molto prima, quindi aspetteremo anche qui l'ultima salita. E poi la penultima tappa del Tour, come al solito una gran tappa il giorno prima degli Champs-Élysées, abbiamo il Juplan e l'arrivo in discesa, questa è un po' una novità. L'anno scorso l'Alpe d'Huez fu l'ultima salita, quest'anno il Juplan, ma non si arriva in salita, ripeto, c'è una discesa impegnativa dal Juplan. Chissà se che non possa essere decisiva, lo speriamo tutti. Sì, io me lo auguro in prima persona perché sarò lì. Per esatto, cui... ci manderai un po' di reportage dalla Francia, spero. Farò sicuramente il possibile, devo dire che riesco per fortuna e ringraziando gli amici delle Coq Sportive che anche quest'anno ci hanno invitato a godermi un paio di giorni sulla strada del Tour. Ovviamente cercherò di mandare testimonianze. Mi auguro di vedere uno spettacolo all'altezza di quello che è il Tour de France, che visto dalle strade è sempre super spettacolare. Visto in televisione fin qui forse lo è stato un po' meno, però se lo spettacolo non ce lo danno in questi due giorni, non ce lo danno più. Ma sai cosa ha detto Geraint Thomas ieri nel giorno di riposo? Ha detto che ci pagano per vincere, mica per dar spettacolo in televisione. Anche questo va considerato in un giudizio complessivo sulla corsa, giustamente criticato, lui ha risposto noi siamo qui per vincere il Tour, che altro volete da noi? E stanno facendo quello che devono fare. Sì, potrei essere d'accordo in parte, nel senso che se lo spettacolo non c'è ancora per un po' di tempo, non so quanta gente ci sarà a pagarli, prima cosa. Seconda cosa, non è dalla Sky che vado chiedendo lo spettacolo in queste ultime tappe. D'accordissimo con te. Qua tutti sembra che pensino solo a Rio. L'Inghilterra ha cambiato formazione, Inghilterra o Gran Bretagna, non ho mai imparato come si dice, anche perché cambiano a seconda delle competizioni, ha comunque cambiato formazione, Kenneth resterà a casa, è notizia di ieri, il nostro beneamato Steve Cummings sarà alle Olimpiadi, questa è sicuramente una cosa da celebrare. E sicuramente non sarà anonimo, possiamo dirlo. Sicuramente non sarà anonimo, da celebrare c'è anche il fatto che la pagina Facebook di Bidon ha raggiunto 2000 fan, diciamolo, facciamoci complimenti e chiudiamola qui per non fare gli egocentrici. E niente, a questo punto direi che siamo ormai pronti per andare a goderci questi quattro giorni di Alpi e fatica altrui ma anche nostra, alle volte più nostra che altrui. Sì, direi proprio di sì. E allora lasciamo la parola al nostro Dino Zandegu, ringraziando Bauke Mollema, nostro inviato sulle strade del Tour de France, che ci ha svelato il suo nome come si pronuncia. Ci sentiamo nei prossimi giorni dal Tour de France. Ciao. Bauke Mollema. Vieni al Tour de France,